Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Questa è una storia che racconta due mondi che normalmente non si sarebbero incontrati. Due mondi che invece, grazie alla comunità di Sant'Egidio, nell'incontro danno vita a una nuova realtà dove i pregiudizi si sciolgono e l'amicizia fiorisce. È la storia di Maura, avvocato milanese, dei suoi due figli, della sua casa affidata alle cure di Dorina. Dorina è una donna rom che per anni, prima di avere il lavoro da Maura, ha vissuto coi suoi due figli in una baracca tra topi e disperazione. Ma cosa fai adesso? Pulisco le tazze, piatti, bicchieri. Poi stiro. Anche io. Sì. Dorina, ma tu hai mai avuto difficoltà a trovare lavoro perché rom? Sì, tantissimo. Guarda. Ci sono da tanti anni qua, però quando sentono che sei rom, se non c'è una conoscenza non ti mette. Ma secondo te di cosa hanno paura? Paura ci sono da tante cose. Prima si spaventavano che rubava i bambini. Quando ti vedevano, guarda la signora, guarda Lara, così dicevano. Però non è così. Già faccio fatica con due figli, invece prendevo un altro bambino. Ma no, questa lo so che non tutti siamo, però neanche gli italiani non sono bravi, a un certo punto. In tutto il mondo è così, succede. Senti, ma prima della casa dove vivevi? Campo. Sono in campo tanti anni, 3-4 anni. Quando è arrivata la casa ce lo racconti quel momento? Bene, cioè, non mi veniva a credere, perché dopo tanti anni... 13 anni, avere la casa è pesante, cioè a vivere in campo è brutto, con i bambini non c'è dove ti lavi, dove si stai, i bambini devono andare a scuola, come li fai? Andavo in una chiesa a lavare i bambini, avevano un'amica italiana che mi aiutava a prendere i vestiti tutte le settimane, a lavare i vestiti, asciugarli, a portarmeli a campo, e io facevo mangiare dove degli amici a mangiare, se no in giro mangiavo con i bambini. Pesante, cioè quei momenti c'è, cioè, proprio pensarli, perché ho passato di momenti bruttissimi io, perché nel campo non c'era acqua, non c'era riscaldamento, acqua, riscaldamento, niente. Cioè la tua casa com'era? Come baracca di legno. Passato anni, io lo so. E poi pioveva, aveva il letto, era alto, così lo facciamo alto se non ne arrivava l'acqua sotto. I momenti, poi i topi, non dormivamo tutta la notte, dei topi con i bambini, facevamo un legno così a battere sempre nel baracca e non arrivare i topi per noi la sera. Pensavo, io non ci credevo, pensavo che è un sogno, per arrivare quando mi hanno chiamato per avere le chiavi della casa. E proprio mi è arrivato di San Valentino, il 14 di San Valentino mi è arrivato le chiavi, che io sono andata a prenderli. Proprio quel giorno mi è arrivato le chiavi. Sì, di San Valentino. Cioè, mai visto così, veramente. Cioè, non mi veniva a credere. Pensavo che è un sogno. Cioè. Dorina vuole caffè, ce lo facciamo. Sì, grazie. Così, mentre Maura prepara il caffè, la casa si riempie di persone. Genesia, una donna rom che anni prima ha lavorato sempre in casa di Maura. Flaviana Robbiati, una maestra che da volontaria in Sant'Egidio si batte perché i bambini rom abbiano diritti rispettati. Col caffè e i pasticcini arriva anche Argo, il cane di Maura. La casa è piena di luce e in questo clima sereno ognuno racconta la sua storia. Mi chiamo Maura Sianesi e siamo a casa mia e ospiti due signore rom, una che lavora adesso attualmente presso di me e un'altra genesa che ha lavorato a casa mia per 4 anni come aiuto nei lavori domestici. Tu di lavoro cosa fai, Maura? Io sono un avvocato. Quando hai deciso di dare da lavorare a Genesa? Ma in quel periodo avevo conosciuto la comunità di Sant'Egidio, in particolare due persone che si occupavano del servizio ai rom, in particolare per i bambini che vivevano nel campo. e avevamo iniziato soprattutto a raccogliere vestiti da amiche, perché ovviamente nel campo si fa molta fatica a poter lavare e asciugare, soprattutto d'inverno, i vestiti, lenzuola, cose varie, libri per la scuola. Io avevo iniziato proprio rispondendo a una mail in cui si chiedevano dei libri usati per le scuole medie. Dopo un po' di tempo sono andata insieme appunto a Flaviana e Assunta, sempre volontaria di Sant'Egidio, al campo in Via Cima, dove ho conosciuto Genesi e altre famiglie, in particolare lei, che era molto giovane e con cui ho avuto subito un grosso feeling, mi è piaciuta subito tantissimo. Ho trovato che avesse una dignità e un portamento veramente proprio signorile. E poi mi è stato chiesto, proprio per cercare di avviarle al lavoro, di farle fare qualche ora, se potevo, anche sabato mattina da me. E così è stato. Lei all'inizio è venuta qualche volta il sabato mattina a fare le pulizie di fino, poi non ha più potuto venire la colf che io avevo, allora molto volentieri io ho deciso di assumere lei, che nel frattempo avevo già un po' frequentato e conosciuto. Quindi lei ha iniziato a venire a casa mia 2 mattine alla settimana e con un rapporto di fiducia massima, voglio dire, lei rimaneva, i miei figli andavano a scuola, io andavo a lavorare, mio marito allora c'era anche, quindi Genesa rimaneva in casa da sola con le chiavi in portineria e mi sono sempre trovata benissimo, devo dire. Tu hai dovuto fare i conti con qualche tuo pregiudizio prima di appunto dare le chiavi a Genesa? Guarda, veramente mio pregiudizio no, cioè almeno non nei suoi confronti, devo essere sincera, magari rispetto ad altri o a sconosciuti no. È vero che erano, cioè lei veniva da una famiglia già conosciuta dalla comunità di Sant'Egidio, quindi io mi fidavo anche della fiducia che avevano riposto altri, per cui non voglio fare quella bravissima, magari con qualcun altro ce l'avrei avuto. Con lei no, si sono proprio subito abbattute le barriere. Ho dovuto fare i conti con molti commenti di amiche, conoscenti, altre persone, cioè mi ricordo anche solo ai tempi c'era la babysitter, io ho un figlio con delle disabilità che non poteva stare da solo. E anche questa signora ai primi tempi era molto preoccupata, cioè amiche che mi dicevano: ma tu sei matta, ti metti una donna rom in casa, ah, non si sa mai, all'inizio sono brava e poi chissà cosa succede, nascondi tutto, insomma, clima di questo genere. Invece devo dire anche mio marito non ha avuto grossi problemi, cioè, magari qualche perplessità all'inizio, però non ha mai posto veti, insomma, ma anche i figli, devo dire, non... Cioè, vista la persona, hai quella persona davanti, è il solito discorso, insomma, cioè se tu dici Rom, ti immagini chissà chi, ma puoi dire anche marocchino senegalese, poi hai davanti, la persona X concreta ed è lei e basta, insomma, è un rapporto con lei. Quindi io mi sono trovata benissimo, devo dire. E tu sai che cosa significa? Qual è l'impatto sulla vita nel caso di Genesa o di Dorina, ma in generale, cioè, ha un impatto fortissimo, no? Sulla vita di queste donne e sulle loro famiglie. Sì, l'impatto è fortissimo, prima per motivi pratici, cioè, soprattutto diciamo adesso entrambe, sia Genesa che Dorina, sono sistemate molto bene, sono riuscite dopo anni ad avere la casa popolare, quindi sono a posto, però quando erano soprattutto nel campo, il grosso problema è anche riuscire a far avere a queste persone la residenza. Per avere la residenza, almeno a Milano, dipende da altri comuni, comunque devi avere un minimo di contratto di lavoro. Se nessuno ti dà un lavoro, non avrai mai la residenza, non potrai mai avere l'assistenza sanitaria, non puoi accedere a tanti benefici anche economici che il comune mette a disposizione, che sia il bonus bebè o altre cose che mi vengono in mente, varie tessere per fare la spesa o cose del genere. E l'impatto poi ovviamente è sul loro orgoglio, sulla loro dignità, sul loro sentirsi parte della società. A me, devo dire, aveva fatto un'enorme impressione all'inizio, quando poi vedevo altri Rom e vedevo che loro mi guardavano quasi con ammirazione perché io avevo preso Genesa in casa come se fosse una cosa che nessuno avrebbe mai fatto stratosferica, mentre a me sembrava assolutamente normale. E per loro era quasi un vanto. Cioè, poter dire che lavoravano nella casa di un avvocato, sembrava una cosa, ecco, che accresceva l'orgoglio. incrociano, persone che cambiano, migliorano, come racconta Tommaso, il figlio di Maura, che in un primo momento ebbe diverse resistenze. Quando ho chiesto a mia madre se aveva pregiudizi, così, io all'inizio non avevo nessun tipo di pregiudizio contro il fatto che fossero rom o comunque stranieri. L'unica cosa che mi dava un po' fastidio era che più che altro abitassero in un campo per cui le condizioni igienico-sanitarie magari, cioè che immagino desse fastidio anche a loro, sicuramente non erano le migliori. E mi ricordo la prima volta che Genesa è venuta a casa nostra, che ero oramai 8 anni fa, che era venuta con questa signora della comunità di Sant'Egidio che ci aveva raccontato che si era voluta far prima portare da una parente a fare una doccia e mettersi un abito tra l'altro bellissimo che mi ricordo ancora. E io mi ricordo che stavo facendo i compiti di latino in un terza media e la mia prima reazione, ma per un po' di volte, poi dopo con la conoscenza si abbattono anche questi muri perché vedi proprio la persona, così scambi due chiacchiere e ti ritrovi nell'umanità, dicevo no, vabbè, che pulisca casa mia, ok, tanto c'è lo straccio, però magari, non so, non è proprio pulitissima, i miei libri non li tocca. E ci ripenso perché adesso mi dico, urca, che stupido che ero, cioè, e mi fa impressione come appunto spesso se ci si ferma, come dire, il pregiudizio, si hanno caratteristiche diametralmente opposte. Cioè, io adesso la considero una mia amica, una persona a cui voglio bene. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a 1 gigasimmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Makes plants grow. Who cares what it does since you broke my heart? Siamo nella casa di Maura, un avvocato milanese, 2 figli, una casa tenuta in ordine e pulita da Dorina, una donna rom. Prima di Dorina, ad occuparsi delle faccende domestiche c'era Genesa, 29 anni, anche lei rom, mamma di 4 bambini. Se non fossimo in una società dove a vincere sono spesso i pregiudizi, questa puntata non avrebbe neppure senso farla. Ma così non è, e questa storia vale la pena di raccontarla perché si possa capire più a fondo l'altro. Genesa, un'idea di cosa sia il pregiudizio e di quanto possa ferire, ce l'ha ed è molto chiara e dolorosa. Quando mi hanno detto, cioè, tu devi andare da una nostra amica, che si chiama Maura Sianesi, un avvocato, io l'avrei pensato, dentro di me c'era una fiamma, come mai che un avvocato, un italiano mi prende in casa sua, come mai che si è affidato di me, ero sporca, ero così, pensavo come faccio ad arrivare il punto di andare lavata, di non puzzare del fumo, cioè i topi che erano mangiavano anche i vestiti e così, per non prendere qualche maglietta bucata e così. Però io quando ho conosciuto Maura Sianesi, lei per me era come un angelo custode, diciamo, un angelo custode veramente, perché lei mi ha accolto, mi ha tenuto in casa sua con tanta fiducia, lei e suo marito. Non tanti fanno questa cosa. Io ho paura sia al giorno di oggi di dire che sono rom, per paura di non perdere il lavoro, non per altro, e per non essere insultata, diciamo. Però questo non è giusto, no? Perché fa parte della... Tu sei rom, quindi non doverlo dire è come nascondere qualcosa di te stesso. Allora, diciamo così, il destino non lo può cambiare nessuno. Anche a me piacerebbe essere italiana, diciamo come voi, per avere il diritto di sopravvivere, diciamo, come voi, di avere una, cioè, di avere una scuola, studiata, diciamo come voi, di avere quella stima di andare sulla strada con la testa sopra, come voi, però. Se Dio ha voluto così che io mi nascessi una famiglia povera, una famiglia Rom, questa qua non lo possiamo cambiare noi. La decisione è da Dio, non è nostra. Quindi, per noi diciamo che io ho paura, per questo, io ho paura di andare in giro e dire di sono Rom. Dico rumena, non Rom. Tu adesso hai una casa, giusto? Grazie alla comunità di Sant'Egidio, sì, adesso ce l'abbiamo una casa bellissima, che ce l'abbiamo quasi 4 anni da quando siamo in casa. Questa è bellissima, c'è proprio una cosa bellissima, perché ce l'abbiamo una casa, ce l'abbiamo una doccia, ce l'abbiamo del gas che possiamo fare da mangiare, non c'è più i topi, non c'è più l'alcol che bruciavamo per cucinare, non c'è più i topi che ci mangiano i vestiti e rovinano tutto. E le pentole che erano infettate, diciamo, da questi, da questo schifo, da questo. Cioè, per noi era una cosa veramente soffocante, non potevi neanche respirare. Altre persone dicevano: ma dai, che a voi vi piace perché siete ricchi, vi piace abitare così, magari le vostre case sono in affitto e a voi vi piace stare nelle baracche per guadagnare dei soldi e così. Però per noi era una cosa, stai malissimo. Te lo ricordi il primo periodo in cui hai avuto la casa? Come stavi dentro questa casa? Cosa provare? Cosa facevi? Se facevi cose strane? Raccontacelo. Abbiamo dipinto la casa, l'abbiamo colorato, diciamo, in modo nostro, come ci piace a noi, perché era prima casa, per noi una stanza e una cucina e un bagno, per noi era una cosa splendore, diciamo, una. Piuttosto per me, quando ho visto una stanza, una cucina e un bagno, io non lo so, cioè, sono iniziata a piangere. E veramente i bambini mi tenevano: mamma, guarda che bella casa, che bella gioia, che. E poi anche una carta, anche un sbriciolo di pane, qualcosa si cadeva giù, noi dovevamo pulire e lavare tutti i giorni. Per noi era una cosa bellissima. Flaviana Robbiati è una maestra e come volontaria da anni lavora con Sant'Egidio. E ho cominciato, io che comunque da milanese. Un po' borghesotta in un certo senso, pensavo dei Rom quello che pensavano tutti, e standoci vicino, proprio a scuola, ho cominciato a capire che avevo in testa un sacco di idee sbagliate e che questi bambini erano estremamente paurosi nei confronti degli italiani, che non attribuivano a loro stessi dignità, ma nemmeno avevano fiducia in loro stessi. E i genitori erano genitori assolutamente normali, cioè non erano né ladri di cose, né ladri di bambini, né persone inaffidabili, erano dei genitori preoccupati per i loro figli, estremamente poveri, non per scelta ma per povertà, per necessità, perché quando non si ha nulla non si può fare altro che vivere sotto i ponti o in baracca. E anche quello che questi genitori sentivano dire spesso in strada: vai a lavorare, beh, all'inizio non era realizzabile perché gli italiani non davano loro un lavoro. Lì è iniziato proprio una conoscenza. Io devo dire che come italiana mi sono vergognata molto di quello che noi pensiamo dei Rom, perché abbiamo in testa idee che poi sono veramente sbagliate, che non vuol dire che non ci siano Rom disonesti. Ma come in tutti i gruppi sociali ci sono gli onesti e i disonesti. E lì sono nate delle relazioni di fiducia, di stima, il desiderio di conoscersi. Quando poi c'è stato lo sgombero grande della baraccopoli di Rubattino, si sono messe insieme le forze di Sant'Egidio con le forze del quartiere. È veramente esplosa Milano a favore dei Rom. Per un paio d'anni, tutti i giorni, questa vicenda era sui giornali, perché non era normale che i bambini Rom venissero difesi. È normale difendere i bambini, ma purtroppo non è normale a Milano, in Italia, difendere i bambini Rom. men che meno i loro genitori. E poi questo contagio di solidarietà che ha interessato molti milanesi ha creato proprio un movimento che un po' alla volta ha portato più di 70 famiglie rom dalle baracche alla casa, al lavoro, i miei figli sono tutti a scuola, senza avere nessun canale preferenziale rispetto agli italiani, questo ci tengo a dirlo. E adesso la vita di queste famiglie è assolutamente cambiata, cioè a nessuno piace essere povero, è una condizione di necessità, ecco. E sono cresciuti anche i rapporti di amicizia, per cui si festeggiano insieme i compleanni, si condividono tante cose, ci sono ancora tanti percorsi da portare avanti. Sono cambiati sicuramente i rom, sono cambiati sicuramente tanti milanesi, tanti italiani. E anche se c'è ancora una diffusissima antipatia e ostilità verso i rom, devo dire che ci sono tanti italiani che sono stati felici di poter uscire da questo circolo di cattiveria e uscire anche dal silenzio e poter dire: io non sono così, non ci sto, io voglio creare un mondo più giusto, che non è più giusto poi solo per le persone rom, è più giusto per tutti, è migliore per tutti, cioè la pace o è per tutti o non è per nessuno. I muri ci dividono, ci fanno male, ci costringono a costruirne di sempre nuovi, perché non sono mai sufficienti i muri se abbiamo paura dell'altro. Se conosciamo l'altro, la paura diminuisce e stiamo meglio tutti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è stato più facile trovare lavoro alle donne rom, gli uomini rom invece? I primi a lavorare erano stati gli uomini nell'edilizia, le ultime metropolitane, la Fiera di Rho sono stati costruiti in gran parte da uomini rom. Per le donne c'è stato anche una questione a volte di superare una cattiva abitudine all'interno delle famiglie, cioè queste donne non lavoravano, un po' come era da noi 100 anni fa, soprattutto al sud, non era ben vista la donna che andava a lavorare. Quindi c'è stata anche un'emancipazione sociale in quel senso, e adesso è forse più facile trovare lavoro per le donne, genere pulizie, badanti, lavoro negli alberghi, presso cooperative, presso ristoranti. Comes the sun, I say it's alright. Quella di Flaviana è un'idea di società democratica e meritocratica, forse l'unica società davvero possibile da sognare, ma quella da cui troppo spesso ci allontaniamo. La puntata termina qui. Un saluto da Cristina Carpinelli, potete scriverci a diario@radio24.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.